Senta, lei un po' che organizza. Sì, sono io. Cosa ne dice della prova di oggi? Beh, io non sono del tutto soddisfatto. Ah, hai visto quello? Come non può essere soddisfatto chi prepara e si aspetta una prestazione, insomma, che non risulta, insomma. Ad ogni modo il miglior giudice è il pubblico, poi. Cioè, ma il Quindi. pubblico fino a tre quarti credo Ci ha abbia seguito seguito, sì. bene, insomma, no? Poi cosa è successo secondo lei? Ma io non lo so, non so se sia stata forse l'interruzione, non lo so. Anch'io ho l'impressione Sì. che è un po'. Difatti è un esperimento, è la Ecco. prima volta che noi facciamo un esperimento del genere. Perché in altri copioni, in quella scena direi che doveva servire a rompere un po' la gravità, dello spettacolo, era inserita nel testo. Ah, era inserita nel Faceva testo. parte di una Una scena di questo tipo. scena di questo tipo. Senta, ma una scena di questo tipo non ha avuto l'impressione, vabbè, intanto era un'interruzione verso la fine e che poi distruggeva, come dire, il carattere epico un po' della Forse io. rappresentazione. Cioè in quel momento era molto bellina quella cosa, ma però distruggeva tutto. Esatto. Quindi io naturalmente, siccome è un esperimento, le conseguenze. Cioè io le conclusioni le ho stasera, insomma, e mi propongo nelle rappresentazioni che seguiranno di rifarla la scena, ma alla fine, Ah, ecco, sì. come direi una farsa, Sì. che serva un po'. Senta, di solito questi maggi, dico, lei è la famiglia, no? Di gente Dai, che si è insomma, io sempre ho occupata, ripreso, ecco. ecco, una tradizione che era un po' Famiglia nella dei famiglia, maggi. ecco. Sono sempre così lunghi? Erano molto più lunghi, Erano più molto lunghi, più lunghi. ma lei oggi ha calcolato il tempo, sono circa 3 ore meno un quarto. Sì. Ah, erano più lunghi. Arrivavamo, permette che Prego, mi prego. si arrivava alle 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza. Il maggio classico era di 4 ore e mezzo. Io ho copioni, moltissimi copioni, che addirittura ho ridotto. Cambia. Beh, va con la batteria. Ecco. Ah, lei ha molti copioni della famiglia? Della famiglia ne avrò un 5-6, Sì, ma e ne ho poi ne raccolti. ha Ne ho raccolti. raccolti. E a quale scopo li ha raccolti? Li ho raccolti perché mi sembra che un patrimonio che come dire, un patrimonio se vuole rudimentale, quanto vuole. Che è la sintesi, non so, di collaborazione fra pubblico, attori e soggettisti che vengono dal popolo, con la terra popolare. Così nella sua rudimentalità però hanno un valore, a mio giudizio. Ha capito. Quindi lasciandoli così un po' nelle mani di chiunque, potrebbero, a mio giudizio, andare perduti, ecco. Ha Mentre capito. invece, facendo una raccolta così, io ho fatto molte fotocopie, anche fra parentesi, fotocopie di soggetti, perché i proprietari in genere sono molto gelosi, ecco. Senta, a lei interesserebbe pubblicarli anche in forma modestissima, voglio dire, ma in modo che potessero essere conosciuti anche fuori dalla zona. E Io potrei anche. poi ne parliamo, È adesso dopo una. nastro ne Sì. parliamo. Senta, ma come faceva in 4 ore a tenere il ritmo lo spettacolo? Perché oggi qui, Beh, intanto il sì. ritmo vuol dire come può farlo il maggiante, perché ho visto una fatica Fiato, enorme, insomma. una fatica enorme, nessun attore fa una fatica come questa. E poi proprio ci sono delle pause, ha visto? A un certo momento ci sono delle cadute, no? Guardi, bisogna riandare nel tempo, a mio giudizio. Mi dispiace che lei abbia con altro, ma Ma dopo ne ho un altro, ma sulla macchina, ma va in piazza, quindi. bisogna riandare nel tempo, cioè quando questa zona, che non è la zona dove il Maggio è nato, che noi l'abbiamo importato, indubbiamente, da noi viene dalla Toscana. Ma verso che periodo? Ah, io penso alla metà del secolo scorso, io ho un Ah. copione che addirittura risale più antico, al 1858. E quando questa zona era storicamente ed economicamente forse la più depressa, direi, dell'Appennino, strade di comunicazione inesistenti completamente, mezzi di comunicazione non ne parliamo. Quindi l'unico divertimento che cos'era? La lettura dei classici, Orlando Furioso, che veniva fatta nelle stalle, che veniva fatta nelle serate invernali, ma ad alta voce, cioè non era la lettura del singolo, era il gruppo, non so, familiare o vicino alla famiglia che si riuniva nella casa dove c'era il più istruito, chiamiamolo così, più erudito, qua leggeva ad alta voce. E quindi a un certo momento mancanza assoluta di divertimento. Io penso che